fuggi, fuggi da questo cielo aspro e duro, spietato e gelo. Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo aspro e duro, spietato e gelo. Tu che il tutto imprigioni e neghi, né per pianto ti frangi o pieghi, fier tiranno gel dell'anno. Fuggi, fuggi, fuggi laddove il verno sulle brine asseggio eterno. Vieni, vieni candida, vien vermiglia, tu del mondo sei maraviglia, tu nemica d'amare noie, dai all'anima delle gioie, messaggera per primavera, tu sei dell'anno la giovinezza, tu del mondo sei la vaghezza. Vieni, vieni, vieni, leggiadra e vaga, primavera d'amor presaga, o di zefiro che ti invita, e la terra col cielo marita, al tuo raggio venga maggio, pieno, pieno il grembo di bei fioretti, vien sull'ali dei zeffiretti. Aspro e duro, spietato e gelo. Fuggi, fuggi, fuggi da questo cielo aspro e duro, spietato e gelo. Tu che il tutto imprigioni e leghi, né per pianto ti frangi o pieghi, fier tiranno gel dell'anno. Fuggi, fuggi, fuggi laddove il verno sulle pine a seggio.